20 Allora, chi la fa stavolta? Alessio, tu? Cosa? La cosa iniziale, la cosa solita iniziale. No, no, no, dai, la faccio tre, io. Tutti e tre? No, no, tu, è arrivata. La faccio io! È arrivata. No, va bene. Facciamo il tocco? Tutte e tre. No, dai, tutte e tre. Io! Appassionata. Io! Chi è? Come fare io? È il nostro DJ. No. Cerchiamo di non... Con tutto il bene, però. Dai, al mio trip. Dai, non è possibile. Basta, per piacere. Dobbiamo per forza accontentarlo. Ok, la facciamo fare a te. Io! No, basta, la fai tu, è tutto tuo, mi raccomando. Ma ora in onda, mi sa stretto lo stivale. No, mi sa stretto lo stivale, Cremona, Sassuolo, Parisi, che saresti tu? E dirige nessuno. Sì, tu. Sei pronto? Io! Mi raccomando. Mi raccomando, vai. Va ora in onda, mi sta stretto lo stivale, dirige Strazzullo, Cremona e me! Bravo. Ciao. Bravo. Mamma mia. Buongiorno, buon pomeriggio. Infatti sì. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera da Riccardo Cremona. Ma che sono ste cose? Da Alessio Strazzullo. Mi sta stretto lo stivale Radio 2010. In effetti troppo carico. Mamma mia, ma poi in sottofondo qualche buco. Chiedo, salutiamo in regia il nostro mitico Corrado Parisi. Ciao, la regia. Corrado? Niente, vabbè, non c'è. Corrado? Niente da fare. Non capiamo. Vabbè, avrà qualche problema di voce. Vabbè, avrà un problema di voce, non vuole salutarci. Va allora, bene così, come sta? Com'è andata la settimana? Settimana elettorale, diciamo mamma così. Mamma mia. Secondo me è la più brutta campagna elettorale che si è mai potuta vedere. La campagna è stata anche decente. Ma quando mai? Ne sono parlato di altro. Picchia. Sì, gente che si picchia, hanno parlato di tutto tranne che di politica. Berlusconi che come al solito da di matto. Sì, però va bene. Vabbè, va bene così. È finita, fortunatamente, ringraziando il cielo, è finito. E parlando proprio di più che altro fammi fare un appello. Dimmi. Allora, persone su Facebook e su qualsiasi altro social network. Sì, fallo. Basta questa storia, che ve ne volete andare in Puglia. Basta. Sennò andate a vedere in Puglia, non e andate a fanculo pure, cioè. No, questo non mi permetterei mai. No, sì, io no. Io non ce la faccio più. Però cioè, se ve ne volete andare, andatevene e lasciateci lavorare qui. A noi non ce ne frega niente per andare in Puglia, perché cioè sinceramente io ci vado ogni anno, è un posto che adoro. Sì, ma però da qui a dire andiamo, trasferiamoci in Puglia perché è stato eletto, dai. Mi sembra eccessivo, cioè. Bene, applauso per te. Sì, sono d'accordo, anche perché sai che io non amo Facebook. Poi già non ami neppure la Puglia. No, come no, la Puglia è bellissima, solo che però il giorno dopo, durante le lezioni, dopo le lezioni, Facebook è stato praticamente è diventata la frase la frase più usata da dire così per sentirci un po' più in e un po' più chic. Sì, infatti quelli là più chic, sai chi erano? Quelli là che mettevano le frasi di Rai per una notte che è andato. Quella è stata eccezionale. Tutti quanti che scrivono frasi, le citazioni, gli aforismi, tutti che sono chic intellettuali. E nessuno che ha avuto il coraggio di citare invece Luttazzi nelle parti più crude, quando bellissimo, parlava di merda e di silos di carne. Culo. Nessuno l'ha fatto, fate quello. Parlava di sesso anale, Luttazzi è molto carino. Fate quello, non insomma, fate queste frasi chic. Anche perché Luttazzi secondo me è stato uno degli interventi più belli. No, è stato l'intervento più bello. Pure secondo me. Partiamo subito le notizie. Per la serie non ce ne può fregare di meno. Sì. È nato il bambino di Gigi Alessio e Anna Tatangelo. Invece è una notizia molto interessante. No, sinceramente. Finalmente è nato il nuovo principe della canzone italiana. Napoletana, dai. Romana napoletana, va, perché la madre è di Romana, mo. Provincia di Latina. È della Dispoli. È nata finalmente la stella, l'aspettavamo. Stella, sì, sì. il Gigi D'Alessio Junior. Con tutti quei geni meravigliosi. Geni di cantante. Sarà un cantante sicuro. Una mischia francesca di geni pigliati e buttati così. Mi piace in un utero. Mischia francesca. Una cosa molto, molto da scuole medie. Bravo, mischia francesca. Sì, molto bella. E comunque il connubio di questi geni pieni di talento e di arte ha dato frutto. Ha dato frutto. Il 31 marzo al mitico Andrea, che noi salutiamo e lo invitiamo in radio. Tanti se vuoi auguri venire. Andrea, se vuoi venire sicuramente meglio tu che tuo padre. Senza tua dubbio. Tua madre tanto quanto. Ci fa piacere. Ma tuo padre proprio. Bella donna. Bella donna. Bella ragazza. La mia età. Ora 12 anni. No, 23 anni, la mia età. È giovanissima. È giovanissima e comunque. Io l'ho vista dal vivo, lo sai? E com'è? Allora. Truccatissima, è vero? Qua mi sparo un pochettino il pezzo. Siamo andati a suonare sì. Una volta quando facevo il musicista, da suonare una volta in provincia di Barletta, posti sì. Del genere, diciamo nell'interland pugliese. Siamo lì. E lei era l'ospite d'onore. Ah, beh, che onore. Era Sant'Anna quel giorno. Pure. Tutte quante, tutte queste vecchie. Auguri, auguri. Queste vecchiacce terribili che le lanciavano i fiori. Com'è Gigi? Esatto. E notammo che aveva forse il sederino un po' sceso la ragazza. Cioè a 23 anni. Abbiamo uno scoop. Anna, poi ci sarebbero tante cose da raccontare in quella serata, ma evitiamo. Sì, ho sentito una cosa. Le alzi di rino sceso. Gigi Alessio ha un ginocchio in testa. È stato un fatto proprio per. Si sono conosciuti, sì. Si sono mischiati. È l'amore, si è l'amore. Si dice che Andrea, infatti, sia nato pelato. Per zero, sì. Proprio che non cresceranno mai più. Col culo sceso. Ok. Futura stella della musica neomelodica napoletana. Il prossimo pezzo sarà Cicci Anna Amore Forever. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Non ho vedo le papille gustative sentirlo, in fremito. Ascoltarlo, leggerlo, di godere delle sue note meravigliose. Meravigliose. Di Andrea o di Gigi? Speriamo che con il bambino smetta di andare in televisione. Ma io ho una previsione. Ti dico, siamo nel 2010. Lui adesso è appena nato. Facciamo 2016. Sì. No, di più, 2020. Sì. Sanremo 2020. Sì. Duetto Gigi D'Alessio e Andrea D'Alessio che cantano Papà siente che da ricevere figlio. Sì, cosa. Salutiamo, è arrivata in radio la nostra mitica The Boys. The Boys. Sono la Minucci, salute. Guarda, le è stato affibbiato ultimamente un nomignolo che non riporteremo qui. Non riporteremo qui perché è un nomignolo che scotta. Vuoi dirlo? No, non lo voglio dire. Ah, non lo dici? Non lo voglio dire. Tra l'altro, l'onore mi è mancata il fatto che quando sono arrivato lei non c'era, perché di genere lei è quella che fa il caffè. Eh sì, da brava donna. E lei dice che lo fa, infatti la ringraziamo. No, dai, non mandarla a fare il caffè. Ha detto che lo fa, se vuole farlo, se vuole prendere un caffè con me, volentieri. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, ciao Gigi. No, infatti stiamo parlando di Gigi D'Alessio, scusa, mi sono perso. No, avevi ragione, andiamo avanti. Amsic ha avuto un figlio. Non, che c'entra? Ascolta, fammi arrivare, arriviamo. Non ha giocato molto bene per un periodo perché ovviamente faceva la notte appresso sì. Al bambino, al suo cavalluccio appena nato. Sì, insomma. Sì. E tu pensi che Gigi... No, speriamo che anche loro, insomma, si debbano fermare un po' nella loro scalata al successo musicale. Posso dirti una cosa? Lui, posso pure capirlo. Manna sì. Tatangelo, non ho sì. Tempo, non canta davanti a un microfono. No, secondo me fa serate ovunque. Sì, però zero, cioè nel senso fa quelle serate come lo fa... Raffaello e Alessio della musica neomelodica. Adesso che era incinta di 9 mesi, penso che... Vabbè, però in generale... Andare a cantare col pericolo di... Allora, io mi ricordo una cosa. È andata a Sanremo, tempo 3 mesi, Gigi Alessio è andata, è scomparsa. Gigi è... L'ha ingravidata e mo esce Andrea. Salutiamo Andrea D'Alessio. Non vedo l'ora di ascoltare la tua ugola. Questo misto fra napoletano e latina deve essere spettacolare. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vai, andiamo avanti. Salutiamo Gigi e Anna. Tocca auguri. A me la prossima. Sì, tocca a te. Picchia, non l'ho neanche preparata questa. Vabbè, muovi le carte. Aspetta, muovi, aspetta, cerchiamola. Eccolo qui. Ah, eccola qui. No, ma questa è una notizia importante. Il 28 marzo. Sì, recente. Hanno fermato un uomo. Sì. Alla guida dove? Di Napoli. Napoli. Dove, vabbè. Se no? Dove, giustamente. Dove fermano le auto e succedono di queste cose? Di queste cose. Ti ricordi che parlammo di persone che di un ottantenne un po' di tempo fa che sì, aveva assunto delle che droghe, fumava le sigarette spiritose. Che fumava le sigarette speciali. Spiritose mi piace di più. Beh, la persona che era alla guida aveva assunto ben 3 tipi di droga. Ah, bravo ragazzi. Cioè un mix proprio di quelli esplosivi. Bravo ragazzi. Allora è stato trovato positivo al tetraidrocannabinolo, vabbè, che è il principio attivo dell'hashish della marijuana. Le sigarette spiritose. Cocaina Ed ecstasy. Pure, tutto insieme. Comunque l'ecstasy, cioè io ogni volta che vedo nei film quella sui college americani in cui la gente si impasticca, sì. Comunque solitamente fanno cose tipo vedono i mostri, i colori sgargianti, sì, direttamente nelle pupille degli occhi. Sì. E lui invece, sto ancora benissimo. Come fai a guidare? Come no, perché lui non gli bastava evidentemente. Non lo so, non guidava, quella è la cosa bella. Che tu ti metti nel tuo bellissimo corpo, diciamo così, di tutto, la fogna praticamente, e ti ritrovi con di tutto, di film, di carabinieri. E poi, vabbè, l'articolo continua con una serie di cose parlando delle statistiche di tutte le persone che sono state fermate, sì, quella notte. Quella notte è cioè, uscito il, di tutto. Il 28 marzo penso che la gente si sia data proprio da fare a livello di alcol, a livello di tutto, perché ci sono decine e decine di segnalazioni. E vabbè, evidentemente il 28 marzo un po' gli piace, diciamo così, era una serata un po' così, e lui voleva per divertirsi, non gli bastava la marijuana, la sigaretta spiritosa, non gli bastava la neve, non gli bastava. È giusto. E siamo passati all'ecstasy. Praticamente l'hanno trovato nudo che correva, faceva i giri intorno al Castel dell'Ovo, che sta sull'acqua, e quindi sì, c'era una parte chiaro, tipo il Decathlon, capito? Sì. Una parte fuori e una parte dentro, una parte fuori e una parte dentro, completamente rincoglionito dicendo di essere la regina Elisabetta. Vai, passiamo avanti. Complimenti, perché ce ne vuole. Che meraviglia. Prossima notizia, Facebook. Ah, ecco qua. Adesso noi Facebook abbiamo aperto su Facebook, sì, oggi sì, la nostra puntata, parlando di tutte queste persone che hanno scritto su Facebook di voler andare in Puglia. E continuiamo con emeriti studi di emeriti. Le mitiche università inglesi che una volta al mese cacciano un sondaggio, una dichiarazione che non serve a un cazzo, fammelo esatto, dire, e soprattutto sono poco credibili. No, soprattutto mettono in correlazione due eventi assolutamente da non mettere in correlazione. Assolutamente. Che parliamo di che cosa? Vediamola così. Da un lato abbiamo Facebook. Eccolo lì. Social dall'altro... network. Esatto. Dall'altro abbiamo la sifilide. Malattia venerea contrabile tramite sesso. Sì, quella malattia che ti fa cadere il naso, ti buca la pelle. Sì, malattia terribile. Ma si muore. Si moriva. Si moriva. Vabbè, mo se la prendi prima di accorgerti che c'è la sifilide, secondo me, cioè, ad un medico nessuno... non viene neanche in mente. Sì, infatti, nessuno se l'aspetta. Una di quelle malattie che si prendeva tra pirati, sì, capito? Quelle cose... O tra libertini. E dimmi una cosa, dov'è il collegamento fra queste due cose? E niente, in Inghilterra c'è stato un aumento di casi di sifilide. Perché? E si dice proprio per Facebook, per gli incontri che si possono creare tramite Facebook. Perché tramite Facebook ci si incontra anche gente che non si conosce e si apre così la via al rapporto occasionale. Almeno così questa dicono. Questa è stato il punto d'incontro tra le due situazioni, Facebook e gli aumenti di ma dico di io. Ma allora, e ci può stare che con Facebook sono aumentati i rapporti occasionali. Ma dubito che Facebook entri nella testa delle persone a dire non usate le protezioni. Cioè non arriva al collegamento, capito? È un po' come dire... È un nuovo gioco questo. Troviamo il collegamento tra cose che collegamenti non hanno. Non per hanno. Esempio, c'è stato un incremento di vendita delle macchine Toyota perché, in Italia. Perché i cinesi... Che ne so... No, perché? Sarebbe interessante riuscire a metterla... Con Facebook. Oppure con la sifilide, capito? Con la sifilide. Quindi la Toyota... aumenta la possibilità di contrarre la sifilide perché si fa sesso in macchina. Esatto. Non si ha mai preservativi a portata di mano e quindi si comporta tutto la sifilide. Non ci rompete fare le scatole radio... con queste puttanate, sì, fate cose serie. Invece di fare la radio potrebbe essere collegata alla sifilide, per esempio. E infatti, anche quello. Il dottore che ha curato questa dottore. Non c'è scritto dottore, io leggo dottore, dico dottore. Vabbè, dici dottore. Peter Kelly ha detto sì, che Kelly di cognome. Kelly, sì. Sì. Kelly. Peter Kelly, hello. C'è stato un aumento di 4 volte del numero di casi di sifilide rilevati e a essere colpite sono state soprattutto le donne dai 20 ai 24 anni. E gli uomini dai 25 ai 30. Non ho i nomi delle persone colpite. Bravo. Solo le cifre. Ma ho visto che molte delle persone affette dal virus hanno incontrato il loro partner attraverso i siti di social network. Ma falla allora, finita. Forse qui c'è un problema di zoccolaggine. Ma sì, più che di Facebook. Stiamo parlando di troie e puttanieri che si incontrano, fanno sesso selvaggio. Grazie per dare voce ai miei desideri più nascosti. Lo so, no, tu lo dici con signorilità e io ti apro la mente. Cioè, c'è un cioè lui ha fatto un volo pindarico, e tra parentesi ho detto volo pindarico, vorrei dire, sì, assurdo, bravissimo, senza motivo. Cioè, poi tutto il mondo usa Facebook, capito? È come dire, ah, hai aumentato i casi di diarrea. Abbiamo visto che quelli che hanno la diarrea utilizzano Facebook. E certo, ormai usano tutti Facebook. Non credo che stimoli, diciamo così, La diure, sì. No, la diure. Dai. Va bene, andiamo avanti. Questa è bella. Non vedo l'ora. Qua parliamo di... Io darei un premio a quest'uomo. Premio proprio per la lealtà, per la serietà. Sì. Allora, parliamo di un clochard. Fa famoso dire... Clochard. Però c'è un barbone. Certo che sti francesi, guarda, riescono a far sembrare tutto meraviglioso. Come si dice, il francese è come pulirsi il culo con la seta. Esatto. Parlare francese. Allora, parliamo di un barbone. Parliamo di un barbone, di un clochard a Torino, a Ivrea, provincia di Torino. Sì. Che succede? Lui camminando per la strada ha trovato un portafogli. Sì. La cosa bella è questo portafogli dentro aveva 1100 euro. Già questa cosa per me è assurda, perché non ho mai visto un portafogli con dentro 1100 euro. I ricchi ci sono, dai. Però non portano 1100 euro. Che ne sai, magari un acquisto in un negozio. Va bene, che è successo? Lui ha trovato questo negozio, questo portafoglio. Dici tu, un barbone che vive sulle panchine della stazione, cosa farebbe? Cosa dovrebbe fare? Se le piglia e se ne va, ha bisogno. Se è un barbone vero, si brucia tutto in alcol e droga. Se è un barbone lungimirante, li mette da parte, li mette sotto al suo cuscino per la notte. Quale cuscino? Sotto cartone per la notte. E ogni tanto riesce a mangiare qualcosa. Quindi abbiamo già suddiviso i clochard in quelli che si fanno a tavernello e droga dalla mattina alla sera con i soldi che chiedono elemosine, e quelli invece per bene che si conservano sotto al cuscino. Comunque sempre gente che ha bisogno di qualcosa. Sì, però... Lui invece, davvero uomo, che il barbone è barbone, però non perde la signorilità, la dignità, ha preso questo portafoglio, è andato dai carabinieri e ha detto: prego, ho trovato questo portafoglio, arrivederci. Però. Se n'è andato. Però basta. Cioè, ti rendi conto? Cioè, la nobiltà d'animo. Vabbè, io penso che un barbone possa tranquillamente non farsi nessuno scrupolo morale, sì, e incassare questi 1000 nessuno euro. Nessuno avrebbe detto niente. Nessuno. Perché ci sono anche persone che perdono. Io, secondo me, infatti, i barboni amici sono quando ce la prendono per il culo. È chiaro, ci sono persone che perdono la possibilità di avere una casa e un lavoro non per colpa loro. Certo, ci sono anche le persone che per errore. Sì, però comunque. Però c'è chi. Nessuno avrebbe detto niente, comunque, se un barbone. No. E sai che è successo? La cosa bella, lieto fine, un po' all'americana, che hanno rintracciato il signore carabinieri e hanno restituito i soldi. Che hanno fatto? Hanno rintracciato il barbone e il signore ha promesso una lauta ricompensa. 1000 euro, non ha senso questa storia. Magari qualcosina in meno. E no, vabbè, scusami, posso dirti una cosa? Se tu sei uno che giri con 1100 euro nel portafoglio. Infatti questo è sempre stato il mio sogno. Io ogni volta che ho pensato a ti immagini se trovi un portafoglio per strada, ho sempre pensato magari lo riporto indietro e mi danno qualcosa di soldi in più. Magari no. Magari però. No. Quindi allora io una volta ho trovato un come portafoglio, io trovai un portafoglio a mare nel Lido dove andavo, con dentro 20.000 lire, ho preso tutto. Bravissimo. Ho restituito il portafoglio vuoto. Dicendo che l'avevi trovato già così. Ovviamente. E vabbè, ero piccolo, non dodicenne. Qualche giorno... Quanti gettoni e videogiochi ho preso con quella cosa? Qualche volta ti racconterò... Sì. Delle storie che ho sentito meravigliose. Sì. Nella tratta che facevo nel corso Vittorio Emanuele per arrivare ad una scuola in cui andavo a studiare musica. Sì. Nel C16. E ho sentito storie di... Tutti i tipi. Di questo tipo. Vabbè, queste sono quelle cose napoletane. Vecchie, vecchiacce sempre. Noi odiamo le vecchie a questa radio. Ma non è vero. Io le odio le vecchie. Anche io, però almeno una volta volevo sembrare quello buono. Solo le nonne vanno rispettate, le vecchiacce vanno odiate. Vabbè. Come, una brutta tocca cosa a me, no, tocca ancora a te. Tocca ancora a me? Sì, cinema flop. Ah, attenzione, cinema flop. Questa è bellissima. Questa è bellissima proprio. Allora, parliamo di un flop cinematografico che non si vedeva da anni e da decenni. Ed è un peccato. No, a me non è un peccato, a me non me ne frega niente. Allora, che succede? Che significa? Londra, 27 marzo. Allora, Londra. Nuovo film di Uma Thurman. Sì. Che si chiama Motherhood. Motherhood, scusami. Che significa? Non lo so. E dovevi controllare, vedi, non sei preparato. Scritto e diretto però da Catherine Dickman. Che più o meno letto così potrebbe sembrare uomo pene. Però no, è Dick. Va bene, Dick. Che è successo? Il suo ultimo film. Poi mi sa che non c'è la CK. C'è la CK, quindi potrebbe essere uomo pene. Sai quanto ha incassato? Quanto ha incassato? Per essere un flop. Floppissimo. Ce faccio più io vicino al semaforo. Ma non lo so, 100.000 euro. No. Ma peggio. Cioè, no. Parliamo proprio di un flop serio. Allora, in Inghilterra ha incassato 88 sterline. Perché sono 10 biglietti. 12 spettatori. No. Cioè, il film di Uma Thurman l'hanno visto semplicemente in 12 Vabbè, spettatori. Però dai, va apprezzata, va apprezzata. Secondo no, che me va apprezzato. In America ha fatto $40,000, che è comunque pochissimo, perché sì, sinceramente, a Uma Thurman, che fai fare un film, quanti soldi gli dai? Milioni, no, tanti, milioni. Tanti. E se poi incassi $40,000, già sei bello incazzato. Ma se poi incassi 88 sterline, diciamo che abbandona, attacca la cinepresa al chiodo, perché è finita lì. Tra l'altro c'è da dire però che non è il record, il peggior incasso assoluto è stato invece preso da un film polacco. Sì. Da un film polacco di nome Mai Nikifor, del che regista, parlava di cosa? Del regista Nikifor Krinsky, che nel 2007 incassò solo 7 sterline. Cioè niente, un pacchetto di sigarette. Ci ha dato un flop pazzesco. Mi dispiace per Uma Thurman, perché io sono rimasto poi innamorato di Uma Thurman, perché ha sempre fatto ruoli bellissimi con Tarantino, cose del genere. E poi ha fatto questo film, che ha preso 88 sterline. Non la rivedremo mai più, perché lei comunque i suoi milioni per recitare è se li ha presi. È chiaro. Però, vabbè, la vita vabbè, è così. Uma, ti devi mettere in mano a gente che... Seria. Motherhood. No, qui, roba underground. Di Caterina Pene Uomo non è stato. No. Roba underground, no. E cose così. Andiamo avanti, dai. Allora, la prossima notizia è scottante. È scottante? No, ma scottante. Scottante. È qua adesso, eccola qui. Ah, eccola. Adesso no, oggi... perché ha titoli diversi a seconda di. Vai, molto vai. Bene, di che cosa parliamo? Ma scottante in che senso? Allora, scottante. Fammici pensare un po' su. Allora, è scottante. Sì. Perché c'è di mezzo una sorta di tradimento. Attenzione. Parliamo di un cornuto. Una sorta di tradimenti. Doppi, tripli. Quadrupli, anche a quanto pare. Allora. Hai sputacchiato mentre dicevi caldo. Quadrupli. Scusa, te lo voglio dire. Scusami, l'emozione. Intanto voglio dire una cosa, Eleonora è andata a fare il caffè. Davvero, è anche un tè per me. Perché ovviamente. Figurati, vai. Allora, che succede? Succede che, e ti dico subito che è successo a Tarquinia. Dov'è Tarquinia? In provincia di Viterbo. Ah, grazie. Tarquinia è uno dei, il nome che prende da uno dei imperatori romani. Re di Roma, non re imperatori. Di Roma, scusami. Imperatori, scusate. Molto dopo. I re di Roma. I re di Roma. Addirittura due o tre sono. Non entriamo in questo discorso. Vai. Molto bene. Che è successo in provincia di Viterbo? In provincia di Viterbo è successo che un marito. Mettiti nei panni di un marito. Io sono un marito. Apre Marco la porta Rossi. Di casa, bussa un po' di volte, nessuno risponde. Si preoccupa. Allora, si preoccupa, prende le chiavi, apre subito di corsa, entra. Cerca la moglie. Tutto il corridoio di corsa, cerca la moglie, non riesce a trovarla. Apre la porta della camera da letto. Che cosa trova? La trova in una situazione disperata. Cioè? La moglie è priva di conoscenza. In mezzo a... sul letto. Sì, ma penso che intorno a lei... c'erano due uomini e un'altra donna. Io lo so. C'erano due uomini e un'altra Addirittura, donna. Addirittura? Sì. Due uomini e un'altra donna? Sì. Cioè, pensa che lui apre la porta, fa... amore, è successo qualcosa? Si blocca, ovviamente, e trova la moglie distesa, svenuta praticamente, senza conoscenza, in mezzo a due uomini, tutti nudi, naturalmente, due uomini e un'altra donna. Allora lui panico. Aspetta, che è arrivato il tè. È il momento tè del per tè. Me, caffè per te. Grazie, allora, Eleonora. Ringraziamo Eleonora. Grazie Eleonora che è arrivato il tè. Grazie Eleonora. Ringraziamo tantissimo. A me il caffè, come aveva detto che lo faceva, così l'ha fatto. Serissima la nostra voce che sta bevendo il tè. Però guarda, è troppo caldo. Guarda la faccia. È caldissimo. Infatti da te esce un fumo. Di tè caldo, già fa caldo. Siamo qualcosa di pazzi. Sei pronto? Ma non c'entra, anche il caffè è caldo. Sì, però è poco, potresti... questo è proprio un... capito? Ma tu te lo sorseggi, mica... Vabbè, eccola, Eleonora ha appena aperto Eleonora... 15 papille gustative, palla di lava. Va bene, va Quanto bene. È caldo? Palla di lava, lava pura. Lava del Vesuvio, molto nuova. Molto bene, molto allora, bene, raccontiamo. Dicevamo, ok. Allora, questo tizio, che ha fatto? È tornato prima, o no? Sì. È tornato prima da un impegno lavorativo. Poi la fa la sorpresa. E mo faccio la sorpresa all'amore mio. Faccio un attimo. Mai fare sorprese. Se andate in viaggio di lavoro oppure tornate dopo un po' di tempo a casa e sapete che una ragazza vi aspetta, avvisate. Mai fare sorprese. Mai fare prima sorprese. Prima chiamare. Lui fa: facciamo la sorpresa, amore. Arriva in camera da letto. Là te la trovi tu la sorpresa. E trova un film di Tito Brass. Il sorpresone. Ma lui si è spaventato. Perché? Pensando che fosse uno stupro. Perché? Dico io, perché ma li vedi abbracciati e stanchi insieme. Come fai a pensare a uno stupro? Perché mia moglie è una santa donna. E intanto la tua santa donna ha pippato tutta la notte. E non ha solo pippato tutta la notte, anche. Ha anche pippato tutta la notte. Quindi le due eccezioni della parola. Quindi tua moglie è una zoccola rinomata. Oppure è una persona che ama la vita e adora la vita, ma è stata poco furba nella metodologia da applicare. No. Non è... Allora, se vuoi dire che ama la vita, puoi dirlo dopo che io ho detto zoccola, non oppure. No, niente oppure. E. Ok. È una zoccola e ama la vita. E ama la vita. E ama la perché vita. Se tu fai una cosa del genere a tuo marito, meriti di bruciare all'inferno. No, io non sono d'accordo. Dai, non si fa, non si fa. No, io non sono d'accordo. Yeah, ma pensa tu, uomo, che trovi tua moglie. Allora, già un tradimento è difficilissimo. Secondo me non è possibile che due persone stanno insieme e tu non ti accorgi che tua moglie vorrebbe fare le orge. Non è possibile. Allora, così c'è qualcosa che non va. Sì, però a prescindere, divorziate. Però posso dire una cosa, è il tradimento, nonostante è una cosa brutta, uno può capirlo che non ha che la donna o l'uomo, che sia, ha bisogno di diversificare la vita, diciamo così, no? Mm-hmm. Però trovarla praticamente come attrice protagonista di un film di Rocco Siffredi, c'è un abisso. C'è grazie, ringrazio. Perché c'è un abisso. Io ti do ragione. Cioè, non solo zoccola, ma anche cocaina. Cioè, ma stiamo scherzando. Io orge. Ti do ragione, però subia, non facciamo così i muralisti. Non dai, è, no, c'è un limite. C'è un limite. Sì, c'è un limite. Il però tradimento ognuno è ancora accettato. Ognuno fa quello che vuole col proprio corpo. Sì, allora lui adesso la prende e la scotenna viva. Lui adesso fa le valigie, se ne va, o se è la casa sua la manda via di casa. No, se ne va lei via di casa. Se è casa del marito. No, anche se è casa di lei, via. Anche perché è notata con la cocaina, quindi in carcere deve andare. E va bene così, non si fa. Meretrice. Meretrice. Parole dure. No, invitiamo tutte le donne che vogliono... non sono meretrici a venire qua in radio. Le meretrici in mezzo alla strada. Mamma mia. No, sono così, sono categoriche. Questa persona sta proprio categorico. Stai esagerando. Senti, andiamo avanti. Nei panni di Marco Rossi. Andiamo tu a quell'uomo che gli diresti? Io niente. Ci credo, che vuoi dirgli? Però penso che ci siano dei problemi sicuramente di coppia che dipendono anche da lui. Sì, ma quella se... Io sì, ti voglio bene adesso. Ma quella l'ha trovata così nel turpiloquio del sesso. Sì, però stupido lui. Allora, non è possibile che una persona dice di amarti e di apprezzarti, e queste persone ti fanno capire che vogliono qualcos'altro. Sì. Se non lo capisci, te lo aspetti. Non mi aspetto di trovare mia moglie insieme a due uomini con la cocaina e un'altra donna. A meno che non abbia fatto una sera, caro. Ma che ne dici di, sai, fare qualcosa di strano? E lui... Caro, come sono simpatici i vicini, sai? E lui dice, cosa amore, cosa vuoi fare? Vogliamo, che ne so, vogliamo giocare a cuscinate? No amore, qualcosa di più strano, qualcosa di un po' così, un po' trasgressivo. E allora che facciamo? Facciamo che io ti bendo? No amore, ancora più trasgressivo. Se con tutte queste indicazioni lui non ha capito, è stupido. Ho capito, però, sinceramente, se io non sono d'accordo che mia moglie si faccia trombare da un altro... Vabbè, ecco, no, è chiaro, però da qui insomma. Vabbè, solidarietà per lui e pena per lei. Comunque. Lei se vuole venire qui non è che ci dispiace. Anche perché ormai anche Leonora vuole provare nuove esperienze, a quanto so. Quindi magari. Lei dice di no. Con donne. Vabbè, con donne, se vuole, noi facciamo una diretta radiofonica, assolutamente. E infatti, descriviamo e tutto. Infatti ci scrive, con donne chissà, ma non cose a tre con il mio ragazzo. E io sono d'accordo, è una ragazza... Sì, infatti. Con donne tu potresti venire qua in radio e noi lo facciamo, descriviamo con attenzione manzoniana in tutti i dettagli e deve essere una... Oppure lo descrive il tuo ragazzo, così magari non ti imbarazzi con le persone davanti. Perfetto. Vabbè, no, perché ci voglio stare, scusami. Siamo i conduttori o no? Ah, boh, se Fabio viene e ti spacca la faccia, fa anche bene. Ma no, ma stiamo giocando, Fabio, salutiamo Fabio, ciao Fabio. Allora, andiamo avanti. Smettetela di comunicarvi tramite Messenger. Siamo e per favore, giovani. Fai la persona seria. Vai con la notizia. A proposito di donne che si toccano. Ah, questo è bel collegamento. A proposito di donne che si toccano in maniera violenta, in questo caso. Allora, lei è una bella donna. Una di quelle che mi piacerebbe invitare qui in trasmissione. No, a me non tutte piace. Le altre. Dai. No, a me non piace, l'ho vista dal vivo. Vabbè, comunque. Chi è? 27 marzo. Chi è? Gabriella Carlucci. Ah, la regina della domenica per quasi Gabriella 10 anni. Lei e Marco Columbro, quanto erano simpatici. Gabriella Carlucci si è azzuffata. Allora, con lei... Antonella... Aspetta, diciamo che lei si è buttata nella politica dopo aver fatto... Sì, ma già da molto tempo. No, ammetti che qualcuno lo sa. Le Iene l'hanno bastonata un paio di volte. Sì, perché si comportava un po' da vips. Finta, esatto, per essere politica. Lei si è candidata con la destra, se non sbaglio. Sì, che sì, cosa sì ha fatto? Quest'anno lei si è candidata come sindaco, se non sbaglio. Sì, candidata sindaca del centrodestra del comune di Margherita di Savoia. Famosissimo, come no? Culla della civiltà, Margherita che di Savoia. Tra l'altro, come si chiamano gli abitanti? Tra l'altro, Margherita di Savoia, sì, è in quel posto in cui ho suonato, in cui c'era anche Anna D'Angelo. Anna D'Angelo, te lo giuro. E gli abitanti di Margherita di Savoia? Savoiardi. Savoiardi o Savoini? I margaritani. Comunque. Si è picchiata, azzuffata. Si è azzuffata, anche se non si capisce molto bene guerra fra cose, con Antonella Cusmai o Cusmai, che militante era del PD, quindi la diretta fronte opposto. Allora, l'episodio è stato ricostruito in maniera differente dalle due partecipanti, ovviamente. Ma nessuna delle due ha escluso il contatto fisico. Perché siamo in par condicio, cioè, sono arrivate effettivamente alle mani. Una zuffa fra gatte. Esatto. Diciamo che loro si trovavano ad un confronto per parlare di una nuova residenza sanitaria per anziani. Sì. Ok? E è stato rivendicato da parte del PD qualche merito durante la questione. E ad un certo punto la nostra cara Antonella è stata invitata ad andare via. Via. Ci hanno detto te ne devi andare. Te ne vai. Perché questo centrosinistra non ha fatto niente per questa situazione, quindi tu prendi e te ne vai. Va bene. Lei non era molto d'accordo. Giustamente. E ha detto che qualcuno addirittura l'ha presa da dietro e ha provato a portarla via con di forza. E quindi lei... E Gabriella Carlucci? No, l'altra. Ah, l'altra. Penso si sia abbastanza innervosita, tanto da arrivare alle mani. Sono azzuffate, perché quella è la campagna elettorale più bella della storia. Voleranno denunce. Ma io per questo dicevo tra la campagna elettorale più bella della storia. Tra l'altro si dice che ha vinto Gabriella Carlucci a schiaffi e pugni e sì, ha vinto anche nelle elezioni. Sì, Gabriella Carlucci non è nuova a queste situazioni. No, non è nuova. Allora, una volta è stata fermata perché ha parcheggiato la Porsche in mezzo ad una strada in pieno centro storico di Roma. Intanto qui nello studio per favore qui zuffa fra gatti si picchiano Fabio Milano, salutiamolo, erano la Minucci, si picchiano violentemente, per favore basta, siamo una radio seria. E poi ricordiamo di quella volta che sequestrò sempre la Carlucci il microfono all'inviato delle Iene, che per delle domande poco gradite. Brava Gabriella Carlucci è un mito. Bravissimo. E ora la notizia che tutti quanti... Ah, qualcuno ha scritto anche qualcosa vicino, va bene. Deve essere stata Eleonora. La nostra Eleonora. Allora, la notizia è il momento. Allora, sentite un po' di chi sto parlando. È bellissimo. Eccolo. Oh, weppa. Un passito pallante Maria. Un, dos, tres. Grandissimo. Un passito patra. È grandissimo. Un passito ballante, basta, Maria. Basta, questa canzone è imperversato per un'estate intera. Allora parliamo più di un'estate. Parliamo del mitico Ricky Martin, giovane cantante che praticamente ha fatto outing. Che succede? Allora, beh, cominciamo a dire una cosa. Ha detto di nessuno essere. Nessuno l'avrebbe mai detto, Ha detto di essere omosessuale. Allora, ma tutti chi l'avrebbe lo sospettavano, tutti lo sospettavano. Eleonora, tra l'altro, ha commentato la notizia con un che gran peccato, che spreco. Forse per questo mi sono picchiati un attimo, potrebbe essere. Questo probabile è il motivo per cui siete picchiati? No, Fabio non se ne frega niente. Allora, che è successo? È successo che lui ha fatto outing, ha detto sono omosessuale e ha detto che questo è un regalo che mi ha un dato... Un passito ballante Maria, sono omosessuale, bravissimo, ha detto. Sono omosessuale, sì, in spagnolo. E diciamo che lui ha detto è un regalo che mi ha dato la vita, basta segreti. Lui finalmente ha fatto... Eccolo. Ma basta segreti, aspetta. Ricky. Cioè, sono passati 20 anni. Cioè, ci ha messo 20 anni per dirlo. Basta segreti, mo che vuoi? Sì, allora, lui ha detto sono gay, sono fortunato e orgoglioso di essere. Sono felice di essere quello che sono. Bravo, tutto ok. C'è solo una cosa, Ricky. Ecco, il nostro DJ questo pezzo gli piace. C'è solo una cosa, caro Ricky. Diciamo che l'avevano capito tutti. No, tutti. Cioè, la vita loca, sappiamo che intendevi tu e qualche camionista, ferrotrambiere. Un sacco di stragnocche in questo video, tra sì, l'altro. Sì, infatti lui ha sempre messo... Gnocchissime. Ha sempre messo per favore DJ, basta così. Però si vede da come, si vede da come le tocca che in realtà non... Gli fanno schifo. No, gli fanno schifo no, però... Basta DJ, basta. Per cortesia, basta. No, ah. Grazie. Allora, che è successo? La cosa bella è che lo sapevano tutti. Nonostante lui mettesse donne gnocchissime in ogni video. Magari gliele mettevano, magari lui voleva, che ne so, Tobias. Sì, voleva, che ne so, qualche giovane Sergio. Quello che gli rifà il giardino. Juan. Quello Juan. Del giardino. L'operaio. Allora, l'operaio che gli fa crescere le magnolie. Sì, bravo. Casa. Oppure, che ne so, quello che porta i pacchi. L'idraulico. L'idraulico. Il ferrotrambiere, il fattorino, l'uomo delle pizze, che è perfetto. Ho una pizza per questa lei. Questa storia del ferrotrambiere l'hai detto 3 volte. È perché io immagino Ricky Martin che gli il piace quello rude. Della divisa. Capito. Comunque, diciamo la verità, lo sapevano tutti. Il petroliere, quello che lavora. Lo sanno tutti, perché cioè tu non bastava mettere gnocche. Quelle chiavi inglesi enormi. Non bastava fare movimenti allusivi. Perché lo sapevo, eri truccato più di Madonna. Cioè, se lo sapevano tutti. E poi quel movimento di bacino, Ricky. Lo sapevamo. Quel movimento di bacino non era propriamente eterosessuale. Quindi, magari c'era qualche donna che non l'aveva capito, che in questo momento gli sta strappando i capelli. Fregatevi, sono felice. Ricky Martin è omosessuale, gli piacciono gli uomini. Sì. E mo canterà altre canzoni, secondo me cambierà completamente il genere. Vediamo questi video alla, che ne so, alla, come si chiamano quelli che avevano fatto un passito ballante, no, Giovanni probabilmente canterà lo no, i Village People, lui un passito ballante Juan. Secondo me lui farà i Village People tutti quanti insieme da solo, lui in un video farà tutti e 5. Lui tra l'altro è un grande artista. È grandissimo, anzi Ricky sei invitato in trasmissione. Sì, sei invitato, come no, a braccia aperte e con molta attenzione puoi venire in trasmissione. La tona della canzone, siamo pronti ad ascoltarla. E questo è lo scoop comunque della settimana, perché fare outing nel mondo dello spettacolo non è facile assolutamente. Soprattutto ma per se uno... non lo fai nel mondo dello spettacolo, dove lo fai? Il problema è che è difficile farlo nella vita reale. Non vabbè, quando però, sei Ricky Martin. Però sì, però senti una cosa, Ricky Martin però ha giocato molto sul fatto lo è o non lo è. Perché sennò molte ragazzine in piena fase premesturale, con le mutandine in testa e la foto di Ricky Martin sopra il letto, non lo dico io che cosa è successo. Che è successo? Bisogna cambiare un po'. Allora, io sono convinto che lui sia omosessuale. E lo so pure io. Però che certe dichiarazioni vengono fatte proprio nel momento in cui la tua carriera è in discesa libera. Ma allora tu sei appuntito. No. Sei stato bello, hai colpito. No, dico che secondo me ha bisogno adesso di prendere un'altra fetta di mercato. Non devi discriminare così omosessuali. Non vuol dire che omosessuali siano spettatori. Per carità, io sto parlando di Ricky Martin. Non sto parlando di tutti gli omosessuali. Ricky Martin secondo me sta cercando di approfittare un po' della situazione. O almeno, se non lui, la sua casa di produzione. Vabbè, e comunque Ricky Martin omosessuale, ormai lo mettiamo per iscritto. E così è. Mi dispiace, esatto. Per l'onore, no, cercatene un altro. Secondo me il prossimo a essere omosessuale è Zac Efron, allora, quella che ha fatto Ice Cube Musical. Quando è il tuo compleanno? Il puoi 6 luglio, dirlo, no? Il 6 luglio noi porteremo Fabio vestito da Ricky Martin a ballare un passito ballante Giovanni con in un piazza. Altro nostro amico Giovanni a fianco con un perizoma. Che balla così e si struscia. È un regalo per te, dovresti essere felicissimo. Questo sarcasmo non lo capiamo assolutamente. Lo spettacolo è prodotto da Radio 2010. Siete invitati, come no? È uno spettacolo meraviglioso, per dire la qualità. Allora andiamo avanti. Allora, questo è bellissimo perché mi fanno impazzire le sentenze della Corte di Cassazione. Perché ogni volta escono delle cose assurde. Sì. E dicono che è legge, perché le sentenze di Cassazione diventano praticamente legge. Che è successo? Allora, per la Cassazione c'era un caso di un testimone napoletano che durante, mentre veniva interrogato da un giudice, lui rispondeva in maniera un po' vaga, sai? E il giudice ha detto non faccia il napoletano. Ah, però... Lui si è incazzato come una bestia, no? Per questo modo di fare. E ha denunciato il giudice. Sono arrivati in Cassazione e la Cassazione ha detto che non è un'offesa. Dire non faccio napoletano non è un'offesa. Allora, sinceramente, io penso che neanche per me sia un'offesa. Però, sinceramente, dire qualcosa a quel giudice, che mo non vuol dire che mo se uno risponde vago è napoletano. Cioè, non credo che sia così. Cioè, quello ha fatto, ma che ora è venuto lei a quel posto? E non lo so, saranno state le 6, le 8, le ho fatto, non faccio napoletano. Ma che significa? Cioè io sono napoletano, rispondo serio. Se invece sono un testimone anche di padovano, per me si può fare che togliamo da mezzo tutta la correttezza lessicale. Sì. Cioè per me non ci sono problemi. Tanto che poi iniziamo siamo anche a poter chiamare polentoni noi nord, cioè quelli del nord. O facciamo guerra. Non ci sono problemi. No, ma non si tratta di guerra, si tratta di lavoriamo sullo stesso piano. Se tu mi chiami napoletano, io ti dico scusi, non faccio il polentone, mi faccia fare. Esatto. E quello invece lo denunciava, gli facevano un culo così. E quello è quello la differenza. Va bene, io sono contrario al politically correct. Cioè, no, anche io. A me piace, non... Sì, infatti secondo me la Corte di Cassazione va a dire non è un reato, però, caro giudice, la prossima volta regolati un po', perché comunque sei un giudice, sei pinco pallino. È chiaro. Un po' di così, dai, passiamo avanti. Oh, ma poi questa... napoletano a chi, tra l'altro? Cioè, potrei offendermi anche io, tra l'altro. Chi sto era scherzando. Quel napoletano? Dai, andiamo avanti. Questa, a proposito di Napoli, a proposito di Napoli. Napoli, Napoli, città del sole, di coltelli. Coltelli, sole. E di bambini di 9 anni che ti derubano così in mezzo alla strada. Che bella Napoli, eh? Allora, 9, 11, 12 e 17 anni sono gli anni, sì, l'età dei componenti di una baby gang di rapinatori. Cioè, piccolissimi. Sì, bloccata, questa è divertentissima però. Sì. Dal reparto agenti a cavallo grandi dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli. Funzionano allora. Questi ragazzini facevano scorrerie ed erano una vera e propria banda armata al bosco di Capodimonte. Ecco, sì. Quindi derubavano gli altri coetanei. Esatto. Con che cosa? Con pistole. Con pistole a pallini anche. Sì, quella coltelli. Coltelli. Ovviamente uno dei bambini che è stato derubato va dalla polizia a cavallo. Bellissimi. E dice, oh, mi stanno derubando. E loro li hanno subito trovati. Sono bellissimi, sono felicissimi, hanno presi perché sinceramente questi quattro fetienti, perché fammelo dire, sono bambini. Cioè, ma certo. Cioè, non dovrebbero fare queste cose ad altri bambini, dovrebbero giocare insieme come facevo da piccolo. E sai che cosa bella? Non derubate, giocate insieme agli altri bambini. E sai che è successo? Non minacciateli con dei coltelli o delle pistole. È la cosa bella, sono presi. Giocate con gli sono altri felice, bambini. Sì. Che sono stati utili i poliziotti a cavallo. Soprattutto poliziotti a cavallo, grazie. Perché a me fanno morire. A parte che ho sempre pensato che cagassero in giro per la città i cavalli e basta. Ma la cosa bella è, finché quando stanno nel bosco di Capodimonte li puoi accettare. No, però per strada. Ma non tu lo sai dove stanno? No. Dove sta la sede? Sta a Corso Vittorio Emanuele. No. Quando tu vedi a Corso Vittorio Emanuele che per la salita ci sono questi cavalli, una scena bellissima. In mezzo a motorini, macchine, tre ruote. Però ha un suo fascino. Passa un cavallo. Ha un suo fascino. Che l'altro il cavallo corre sull'asfalto, deve essere terribile. Quei cavalli fanno una brutta vita in mezzo allo smog. Cioè deve essere terribile. Però sono felicissimo che finalmente hanno presi questi delinquenti. Per favore, c'hanno 9 anni. Cioè è terribile che a Napoli mo io vedo un bambino di 9 anni, devo avere paura che questo qua mi caccia un coltello e mi vuole rubare il cellulare. No, infatti. Che tra l'altro io adulto vedo un bambino di 9 anni, non ci credo neanche a quello che fanno nella prima. E poi magari mi accoltella. Capito? Faccio bambini, fai lo scemo. Fai poco scemo, dai. È pericolosissimo questa cosa. A proposito di ragazzi intelligenti, furbi e molto delicati. Ah, questa notizia che mi hai detto tu prima. A proposito di ragazzi furbi già delicati, ma tu hai sentito che in quella scuola la recita scolastica? Ah, quella è bellissima, bellissima, bellissima. Allora, in una scuola, sì, mi sa dove, o in Cina, non in Giappone, non me lo ricordo neanche io, però si fa sempre in tutte le scuole del mondo. Si fa la recita di fine anno. Che cosa si fa di genere? No, non lo so. La maternità. Io ho fatto una scuola un po' particolare all'elementare. Io feci Totò. Facevo Totò. No, noi abbiamo fatto Lisistrata. Che cos'è? Cose greche molto antiche. No, io ho fatto l'Ulisse. Bello però, bello. Re Artù. Totò, fatto, che ne so. No, io ero in una scuola un po' new age, sì, cose vabbè. Un po'. No, te lo giuro. E infatti sono uscito benissimo. Sono uscito meraviglioso, ho fondato una radio. Sì. Tutto merito loro. Tra sì, sono uscito benissimo. Fatelo dire. Comunque fanno sempre queste belle recite classiche. E invece loro. Ulisse. E invece loro. Loro che hanno fatto? Hanno messo in scena Scarface. Ma la parte più bella è quando vedi, la puttanella del nostro protagonista. Perché così veniva chiamata. E dovrebbe chiamarlo Son of a Bitch, cioè figlio di puttana, e lo chiama Son of a Bee, cioè figlio di un'ape. Signori sceneggiatori. Oscar, cioè eccezionale. Il nuovo teatro. Eccezionale. Sono Babi, che allora, da oggi sarà il nostro motto. Un sacco di persone hanno detto no, ma che cos'è questa cosa? Io sinceramente l'ho trovata deliziosa, anche perché il piccolo Tony Montana teneva pure lo spregio. Aveva di fronte a sé una montagna di popcorn invece di cocaina di e cocaina. Di soldi. È una scena bellissima. Incredibile. Per non parlare poi degli schermi giorni in cui ci dovevano essere le telecamere divise, sì, sorveglianza, che erano disegnati. No, che scena bellissima. Poi ci sono bellissimi da piccoli bambini che faceva scarfessa. Eccezionali. I popcorn a posto d'Ucraina. Sono quanti a lamentarsi, un problema di educazione. Io l'ho trovata. Vabbè. Se lo allora, se non spieghi al bambino che cos'è veramente Scarface e lo cambi in questo modo, dove la cocaina diventano popcorn e quindi l'avidità rimane comunque, okay, il okay, vizio però... rimane comunque. E Sono Babì è bellissimo, io ve lo auguro a tutti. Sono Babì a tutti. Sono Babì, ma tu ti rendi conto? Per tutti, siete tutti dei Sono Babì, tutti quanti. Quelle B delle vostre madri, tutti. Perché spettacolare. Intanto tu cerchi, bravo. Voglio vedere dov'era il posto, perché... Vedi dov'era il posto, intanto è bellissimo secondo me. Certo, spero che non abbiano fatto vedere ai bambini Scarface per farli entrare nel personaggio. No, penso di no. Anche però perché ci sono certe scene. Lei che... Un cellulare che squilla. Bravi, un telefono. La qualità e la professionalità è di casa. Grazie Fabio Milano, faceva bene allora Minucci a menarti per questo motivo. Anche se non era questo, però va bene comunque. No, non c'è. Guarda scritto. Che bella, guarda che bella scena il bambino. Guarda là. Il bambino con la camicia bianca aperta, con la catena che gli esce. È spettacolare. Cioè, sono bellissimo. Complimenti a quella in Cina. Guarda, guarda con la tigre. Lui ha anche la tigre. Sentiamo, sentiamo. Questa è la piccolina. Questa sarebbe Elvira. C'è anche la tigre. Vabbè, si blocca. Si blocca, però è bellissimo, signori. Ah, fantastico. Questa è la bambina. Parte in cui dice: tu puoi fare quello che vuoi, puoi anche uccidere le persone. Ha fatto quelle virgolette. Sì, no, così. Ma lei è un'attrice. Lui c'ha questi popcorn. Sì, che davanti, che dovrebbe essere la cocaina, è uno spettacolo. C'è anche l'amico Ciccione. C'è anche l'amico Ciccione interpretato. Guardia spalla interpretato da quello grosso. Sono Babì. Per favore, questo qua va messo in qualche modo, sì, sul nostro sito. Si può fare, si può Lo fare. Metteremo sul nostro sito www.radio2010.com perché va visto. Perché io l'anno prossimo, io quando avrò un figlio, voglio che reciti Scarface in qualche modo. Oppure quei bei tipo Il Padrino. Tu ti immagini mio figlio con i batuffoli nella bocca e fa: e faremo un'offerta che non potrà rifiutare. Meraviglioso. Io, meraviglioso. Cioè, faccio un figlio solo per questo motivo. Okay, allora, okay. Dico alla mia radioascoltatrici: devi essere disposto a trovare fare... qualcuno che te lo Infatti. Faccia fare un figlio. Allora, radioascoltatrici, prima che per questo motivo, fare. Per Sto come facendo. Sei fatto tu. Sto però. Facendo. Allora, radioascoltatrici, se volete fare un figlio con me per poi fargli fare la recita del Padrino, io sono disponibile. In salute, sano e pulito. Sto scherzando, ovviamente. Non sono né sano né pulito. Non sono né sano né pulito. Non è vero, sono sano e pulitissimo. E anche molto simpatico. Ho la barba rossa, da parentesi. Andiamo avanti. A proposito, sempre questa notizia di bambini terribili, sì, che non sanno cosa fare e si mettono nei guai più sì, assurdi. Un nuovo gioco fra bambini, sì. Che succede? Milano-Genova, A7, autostrada, sì. Milano-Genova, un casino di macchine avanti e indietro. I bambini si annoiano. Ma che gioco facciamo? Giochiamo a campana? No, giochiamo a nascondino? No, è qua nascondino. Facciamo un giochino bellissimo. Vediamo chi riesce ad attraversare l'autostrada Napoli-Genova. No, Milano-Genova, un attimo. Cioè, quindi questi bambini sono messi e si lanciavano. No. Tu immagina io guidatore milanese. Uè, eccolo qua, arrivo. Questa è follia. Sto appunto. Guidando. Oppure io genovano. Belì, arrivo. Figa, una persona in mezzo alla strada. Belì, un bambino. Devi cercare di scansare all'ultimo tutto. Cioè, dei bambini che hanno dai 14 ai 16 anni che correvano sull'autostrada, cioè è pericolosissimo. Cari bambini, ma scramazzatevi di pippe piuttosto di fare queste piuttosto cose. Piuttosto che fare questo, ammazzatevi di canne. Cioè, no, canne no, nel senso, dire... piuttosto che morire in mezzo alla sì, strada, piuttosto che morire di spinelli. Sì, cioè, assolutamente. Tra l'altro, lo sai, la nuova moda del momento è che si riprendevano pure con videofonini per metterli su YouTube. Grandiosi. Siamo grandiosi. Dei miti. Guarda quanti siamo fighi, buo, passa il primo tir di becca tutti e quattro. Sangue da Eccolo là. Grandissime, bravissime. Allora, non c'è gloria senza sofferenza, Riccardo. Non c'è gloria. Ho capito, però non è tanta questa gloria. Riesco a attraversare la strada. Senti, questi bambini. Allora, io farei giocare questi bambini 14-16 anni. Di ah, Napoli. No, vabbè, no, là no. Insieme ai bambini di 9, la Baby Gang. Insieme, sai che belli questi, che bella meravigliosi. Coppia. Bellissimo. Una battaglia campale al sì. Bosco di Capodimonte. Allora, state prendiamo... attenti ai poliziotti a cavallo, però. Ci prendiamo una pausa, a dopo. E rieccoci qua, ecco. Oh qua. Yes, oh yes. E adesso è il momento de- oh yes, la vuoi smettere? Oh yes, dai. Allora, adesso è cominciato la- allora, è incominciato la radio dicendo ogni 20 secondi non c'è male. Ma sono degli intercalari, lasciameli. Che calano del tuo fa periodo parte, ma fa parte del mio stile. È bellissimo. Allora, andiamo avanti. È il momento del nostro mitico Ascanio, sì. Anche perché sapevamo che sarà candidato. E vediamo... mi sembra che finalmente sia andata vediamo bene. Vediamo i possibili risultati. Vediamo com'è andata. Pronto Ascanio. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie, mi sentiamo, sei di fresco lì, forse. Grazie, grazie. A chi saluto? Grazie, gentilissimi. Pronto grazie. Ascanio. Pronto. Ehi, Ascanio. Ah, l'intervista la rilascio dopo. No, no, Ascanio, no, siamo noi. Radio 2010. Quale intervista? Ah, vabbè, sì, possiamo anche arrangiarla questa no, cosa. No, no, guarda, la sentiamo raggiante. Grazie, grazie, dopo. Guarda, visto il buon umore. Grazie. Lei è di buon umore. Ma è andata benissimo. Come sono andate queste elezioni? Abbiamo vinto. Ah, cosa avete vinto? Cosa abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ma non l'ho vista sui giornali. Cioè noi lavoriamo sotto. Sotto, sì, okay. Sotto. Che sotto cosa avete vinto? Abbiamo vinto varie elezioni. Varie elezioni. Vari partiti che stavano tra di noi, diciamo così. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Abbiamo cioè? Vinto. Cioè? Bernardo ha vinto, è diventato dove? Sindaco. Dove? In Ciociaria. Ma la Ciociaria non... Ma la Ciociaria, sì, ma la Ciociaria non, è... non è una regione. È un modo di dire. No, non sto dicendo questo. Sto dicendo che noi inventeremo da breve, stiamo progettando di creare... la Ciociaria, sai come esiste la campagna? Come la regione Ciociaria. La regione Ciociaria. Sì, che poi prenderà ovviamente il sopravvento su tutto quello che sarà. Che forma avrà? Un provolone tipo? No, un abbacchio. No, un abbacchio. No, no, no. Una mucca. Ma non ha forma, già esiste. È proprio come dire, che ne so, la regione Campania. Sì, ma la Ciociaria non di esiste. Per sé non esiste come appunto, regione. La faremo esistere. Non ah, è che quindi, ah, quindi lei adesso lei ha vinto. Insieme a Bernardo, che è sindaco di Tiro Lubacchio, ricordiamolo. E che succede? La sua idea qual è? Di prendere e creare una regione. Ma certo, certo. Cioè, come certo? È un positivo però. Cioè, la cos'è? Regione Ciociaria. La regione Ciociaria. Certo, certo, regione Ciociaria. Che sarà enorme, perché la Ciociaria riprende Marche, Umbria, Lazio. Sì, sì, poi piano piano ci espandiamo, tipo macchia d'olio. Ma che volete fare? Volete conquistare l'Italia? No, questo è un progetto che ovviamente come 5-6 anni ci vorranno. No, diciamo per conquistare l'Italia. Fare cosa? No, niente, niente, per espandersi. Ma la dove? Sentito. Scusi, se fa, lei fa la regione, finisce lì. Senta, ma lei fa troppe domande. Ho detto se vuole fare interviste serie ne parliamo dopo, se no ne parliamo adesso. Allora, la cosa ne pensa? Allora, ha vinto, diciamo che ha vinto la destra. Non si capisce bene chi ha vinto. Vabbè, sì, diciamo però, così. Però, diciamo che... è una sconfitta sicuramente una per sconfitta. Il centro-sinistra. Sicuramente. Sì, sì. Cosa ne pensa? Che non me ne fotte un cazzo. Ah, ecco. In generale, proprio. Bene, io la preparo, tutta la domanda seria, e lei lui non gliene fotte un cazzo. Perché non gliene fotte un cazzo? Perché l'ho detto, non me ne fotte. Se non vinco io, cioè, se vinco io, ok, va bene, sono felice. Di tutti gli altri partiti, per quanto mi riguarda, sono tutte merde. Allora, ah, ecco. Allora, io so una cosa. Si dice che i partiti... un giorno torneremo... chi? Chi torneremo? No, nessuno, nessuno. Eh no, dice torneremo. No, torneremo a vincere tutti. Ma chi? Il popolo, il popolo. Ah, il popolo. Sì, sì, il popolo sì. Sovrano. Sì, sì, sì. La Costituzione. Il sovrano. No, il popolo sovrano. Sì, sì, torneremo a vincere il sovrano. Il sì. Popolo sovrano. Sì, il sovrano, il sovrano, l'ho detto, basta, il sovrano. Io. La sovranità, no, sì, la sovranità appartiene al popolo. Sì. La Costituzione. E il popolo sono io. No, lei non è il popolo, lei è eletto dal popolo. Ascanio, ma dov'è lei adesso? Io sto festeggiando. Dove? Ah, infatti sento rumori strani. Cosa? Ascanio, ma le stanno facendo delle foto? Sì. Sì? Sì, mi sto facendo ma chi le sta facendo chi? Delle foto? Gente, gente. Non gente, so fotografi. Ma si sta mettendo anche in posa. Ma è ovvio, certo. Lei com'è vestito da presentazione? Diciamo così. No, voglio fare una domanda più seria. Allora, noi sappiamo che spesso per avere dei voti... sì. Si fanno dei favoritismi. Scusate a chi un attimo. Ok. Okay. Ha fatto la foto. Sì, prego. Allora... basta. Facciamo una si dice che si fanno dei favoritismi. Grazie. Dopo la, ti parlo. Lei promette delle cose per avere dei voti. Sì. Lei ha fatto così? Ha portato anche lei questo metodo che ormai è chiaro che lo fanno no, tutti. No, io ne ho adottato un altro. Cioè? L'intimidazione. Suppongo che funzioni meglio. Sì, sì, sì. Cioè lei che cosa ha minacciato di morte persone? No, morte no. Perdere le case. Perdere le case. I mummoli, ricordiamo. Sì, giustamente. Sì. Perdere case, cose del genere. Sì, quindi sì. L'ha intimidito i suoi lettori. Sì, sì, sì. Oppure che ne so, spendere i cani. Come? Cioè, lei quindi. Aprire non è... il gregge di notte. Non è d'accordo alla frase. Lei non è d'accordo alla frase che il miele attira più dell'aceto. Il miele attira più dell'aceto. Sì, dipende da cosa si sta cercando. È un modo di dire, nel senso che il miele attira più dell'aceto. Nel senso, a essere buoni, funziona meglio. Ma lei è troppo sofisticato, è una ragazza di merda, ma che se ne fotte, parli più palese. Va bene, allora quindi Terra, lei ha avuto... Si calmi. Sì. Lei ha avuto quindi, diciamo così, il pugno duro in questi casi. Ah, ho delle belle knock. Sì. No, pure questo è un modo di dire. E lei è stato... Ma lei parla troppo. Ma è chiaro. Ma parli come mangi. Che cazzo... Lei è stato cattivo in queste lezioni. No, cattivo no. Sono andato alle persone, ho detto, senti, che ti hai da fare oggi? Niente, vieni a votare. No, mi scoccio. Ok, vieni a votare. Vieni. Oppure se non vieni io firmo al posto tuo. Ti va bene? Sì, ok, è andato. Ma come non si può fare? Non si può fare che si Vabbè, firma. sì, non si può fare. Però chissà come mai tutti votano altri e vincono altri ancora. Quale, in generale. Lei dice quel fatto che ci sono un sacco che in realtà dicevano di non votare. Berlusconi qua ha vinto Berlusconi. No, io non parlo. Lei che ha votato? Io non ho votato. Ah, bravo, vedi, uno serio. Votato? Perché un voto posso dare alla volta? Ah, nel senso, ho votato per... Per Ciociarini. Per me. Sì, per lei, sì. Per Bernardo in quelle sì, comunali. Sì, è ovvio, ovvio. Bernardo come sta? È felice? Sta benissimo, è felice. Sì, adesso sta ubriaco sopra un divano. Ha festeggiato tutta la notte, non si è capito niente. A un certo punto c'è stata una specie di ciuccio con una pecora, non si è capito bene. Diceva che la voleva pittare. Comunque è impazzito. Sta lì. L'euforia. E sì, lei, sì, invece, sì. Lei invece... Lei invece... Gli hanno dato la rugola, che hanno detto che non è la rugola. Poi mi ha fatto un piccolo scherzo, diciamo così. Ma lei invece, anche lei avrà bevuto. Contento, stava lì e faceva, ah, bella. Invece in realtà stava in una... Vabbè, ha festeggiato, ci sta. Giustamente. Sì. Ma lei invece è bello lucido, lei non ha festeggiato? No, io se perdo la lucidità perdo il controllo, non c'entra niente. Quindi lei non beve? No, assolutamente. Ma adesso questa è una bugia, perché lei una volta ci disse che lei la mattina appena sveglio beveva whisky. Sì, bevo, però vorrei dire, però non bevo i festeggiamenti. Ah, beve? Però come faccio a rubare i portafogli degli altri, no? Così si dice alle mie parti. Così. Approfittiamo quando gli altri sono ubriachi. Ah, e vi poi... devo dire una cosa, l'altra volta in autostrada. Che fatto? Con la macchina, sì. Ho preso sotto un'alce bellissima sull'autostrada. Un'alce? Dov'era? Non so, erano 4-5 alci piccolini che attraversavano la strada. No, questa cosa è terribile, non è che è bello. Perché... No, erano piccolini. Erano alcini. Ah, no. Allora lei si trovava per caso nella Milano-Genova. Sì, esatto. No, sta parlando della notizia che mi ha dato prima. Bellissimo. No, non erano alci, erano bambini. Sì. Allora che cazzo ho fatto impaiare io? No, mio Dio! Che c'ho un bambino impaiato in casa? Una mezza testa. Ah, lì, levala, quello è un falso. Mi hanno tirato il panno. Non è che è un falso, è un bambino. Ma non ha visto che non aveva le corna? Vabbè, ho detto sarà piccolo, gli devono crescere. Ma no, erano i bambini che facevano il gioco. I bambini non facevano O. No, non facevano O, facevano io, boom, e prima mi uccisi, non facevano O. Facevano I boom, e erano colpiti. Ma quindi O lo fa il guidatore, quando i bambini fanno... O che male la macchina. No, ma che cosa stiamo dicendo? Lei ha messo sotto un bambino, sì. Pensava che era un alce che doveva ancora crescere le corna. E intanto il mio conduttore è morto qua sotto. E l'ha impagliato. Ce l'aveva qua là a casa sua nel salone. Sì. Cioè, se non ce l'avamo noi, mo veniva un ospite, trovava un bambino con la testa di un bambino impagliato. No, ma c'era, tutti quanti hanno fatto anche i complimenti, che bella, è nuova. Che bello esemplare. Sì, è strano. E che posizione l'ha fatto impagliare? No, mezza testa, sai. Ah, no, mezza testa soltanto, il corpo l'ha dato via. Sì, ai cani. Ma come ai cani? Ma voi siete pazzi, lei è pazzo. No, scusate, io non ho i maiali, io devo mangiare i cani, no? Sì, quanti cani ha? Io, tre. Tre, che cani sono? Allora, Ascanio, Mummolo... Felice l'ha scelto mio così figlio. Lo chiami tutti insieme Felice Ascanio Mummolo. Venite. Sì. Sono grandi come cani? No, sono dei piccoli Rottweiler. Crescono bene. Cioè, gli dà la mangia dei bambini. Da mangiare. No, i miei figli non li ha mangiati però. No. Mannaccia. Un'altra notizia di oggi. Voglio chiedere un po' lei cosa avrebbe fatto. Allora, un clochard. Sa cos'è un clochard? Cos'è un profumo? No. È un barbone. È un barbone. Ah, i barboni. I barboni. Miei cari vecchi amici. Sappiamo che... Quanto tempo non vi sento. Allora... Meno male, sappiamo però. Infatti che lei non ha un buon rapporto con i barboni. No, io bene. Noi giochiamo. A che chi gioco? Gioca troppo col fuoco... Eccolo là. Poi si brucia. Allora, il barbone... Che è successo? Un barbone ha trovato per terra un portafoglio con 1.100 euro. E l'ha... A posto di prenderselo, l'ha riportato... ai carabinieri. E noi abbiamo fatto guardi, i complimenti. Guardi, posso dire una cosa? A me sì. L'altra volta mi hanno chiamato i carabinieri e mi hanno riportato il portafoglio che avevo perso. Ah, quindi lei è successo. Quindi adesso lei mi dice che è un barbone? Sì. Sì, avevo offerto una ricompensa. Mo? Che mo la vado a consegnare. Se i barboni, se la gente mi dice dove abita questo. Lei va, cioè gli ha restituito. Sì, sì. A parte che ci fa con 1100 euro nel portafoglio. Sentite, io non ci posso fare niente, andare a prendere un caffè che fai senza soldi. Con 1100 euro se ne compra 1000 di no, caffè. Mi compro una caffetteria, è ovvio. Ah, lei così, vuole un caffè? Sì, compriamoci la caffetteria. Sì, certo, certo, certo. E lui adesso gliela darà la ricompensa, sì, no? Sì, non si preoccupi, ci penso io a dargli la ricompensa. Scusi, ma... Di che cosa sta parlando? La ricompensa. Quanto gli darà di soldi? Che ricompensa? Lo ricompenserò in maniera adeguata. Innanzitutto volevo chiedere, dove state in chiesa? No, perché? Queste campane? No, è il nostro studio. È il nostro studio che è all'aria aperta. Ah, state in chiesa, poverini, la Caritas? No, che no, Caritas? No. È allora fuori la voglio finestra. Dire che la prossima volta vi darò un assegno per devolvere i benefici. Ah, allora, vuole dare l'assegno a noi e non vuole dare una ricompensa al barbone? Vabbè, ma che c'entra? Quelli hanno dei problemi fondamentali, cioè proprio l'ABC dei barboni. Vabbè, quindi, vabbè, questa notizia meglio non parlarne dei barboni no, perché non è il caso. Ma che cosa? Sta cantando una canzone? Sì. Facci sentire. No, è che io dai, non sia timido. Ho scherzato con il karaoke. E che cosa? Che canzone ha cantato? La canzone di Enrico Ruggiero. Dicono che si assomiglia. È un po' sì, ci faccia sentire. Non faccia il timido, ci faccia sentire. Dimmi quando è uguale. L'ultima volta che ti sei fermato un po'. Ma è anche bravo, no? Sì. Dimmi quando è. Che hai vissuto le piccole cose del gusto pieno del mummolo. Ah, ok, però c'è sempre il riferimento. Il mummolo è fisso. Enrico Ruggeri che canta mummolo, praticamente, più che l'opposto. Va bene, noi ne facciamo i complimenti. Grazie. Risentiremo. Complimentissimi. Grazie. Sia per vedere questo progetto della sociaria che è interessantissimo, e sia per vedere se ha dato o no la ricompensa a quel barbone. Mo' certo. Ce lo segniamo. Certo, certo. Guardi che la prossima volta deve essere preparato, perché adesso vi lascio che devo andare in riunione. Ce l'ha dato così. Ma che modo è? Ci ha lasciato così. Vabbè, salutiamo tutti. Allora, momento dei saluti. Chiediamo un altro nostro DJ la base, perché non sono felice. Il DJ oggi non so che il DJ oggi è. non so che problemi abbia. Però adesso ci mette la base, le saluti. E noi salutiamo tutti quanti, i nostri ascoltatori. Oggi è timido, lui è un uomo timido. Così molto vuole fare. Timido. Vabbè. Oggi abbiamo finito, puntata interessante, piena di notizie, di qua e di là, bambini terribili. E vai con i saluti. Eccola qua. Allora salutiamo tutti gli ascoltatori, ovviamente tutti dal primo all'ultima. Ci seguite su www.radio2010.com, oppure ci contattate su Facebook, Twitter, dove vi pare. Tanto non abbiamo niente da fare, quindi vi risponderemo sempre. Scriveteci di tutto. E niente, salutiamo qua in radio regia il nostro amico Fabio Milano. Fabio Milaschi, l'uomo dell'anno. La voce risolve problemi, fa di tutto. La voce Nora Minucci, che è la sua ragazza, diciamolo finalmente. Si amano. Il nostro DJ, ciao Corrado. Che oggi non vuole parlare. Oggi è in silenzio stampa. E da Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Più siate curiosi. Alessio Strazzullo che da Riccardo Cremona. Ok, ciao a tutti. Ciao. Dieci.